Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. E siamo qui. Eccoci, caro Oscar. Qui in questo 12 di aprile, carissimo Alessandro e carissimi ascoltatori, in questo 12 di aprile che San Zeno, protettore di Verona, quindi amici veronesi, non festeggiate troppo, non mangiate troppo, andate in chiesa, pentitevi, inginocchiatevi. Tra gli altri santi, Damiano, Basilio, Vissia, San Saba il Goto, Erchembondone, che proprio non sapevo proprio che ci fosse, Erchembondone. Tra le altre ricorrenze di questa giornata, il primo uomo nello spazio nel 1961, Gagarin, e nel 1633 l'inizio del processo a Galileo, e bisogna aspettare fino al 1992 perché la Chiesa Cattolica ammetta di aver sbagliato. Pensavo per vederlo finito con i ritmi della giustizia italiana. Quelli della Vaticana erano, quelli dell'Inquisizione erano rapidissimi, cioè sapevano dall'inizio come finiva, non c'era il dubbio su questo. Un po' come la giustizia che piace a Davino, a Davigo, però insomma. Ah, dici. E c'è qualche tendenza, vedo che siamo tornati a un grande spolvero, un tema inutile del ricorrente di 25 anni d'Italia, perché se andassimo a fare la pila, caro Alessandro, dei i titoloni e le pagine su fermata le intercettazioni è colpa della politica, dormiremmo, no? Eh sì, ne vediamo di questi titoli un po' tanti, come dire, negli ultimi anni. Allora, caro Oscar, di che cosa parliamo oggi? Non lo so, il presidente della Corte Costituzionale che spaccia un'opinione personale come se fosse un dovere ordinamentale, per esempio, sull'obbligo del voto. Le agenzie riportano quello che ha detto: io credo che si debba partecipare al voto referendario di domenica. Naturalmente i titoli sono stati: votare è un dovere. No, quella è l'opinione personale del presidente della Corte Costituzionale Grossi, non è un dovere, non c'è scritto da nessuna parte che è un dovere, cioè non è vero che è un obbligo votare, chiariamolo a chi ci ascolta. L'opinione del presidente della Corte Costituzionale vale come quella di chiunque altro, è quella che il cittadino deve partecipare, però gli ha detto io credo, giustamente, quindi non attribuiamo opinioni diverse. Tu che pensi che no, si debba? Soprattutto no, credo assolutamente di no, soprattutto sul referendum dove come si sa un voto referendario è anche proprio il cercare di non fare visto non che fare raggiungere esiste il quorum, no, per il risultato no? Il quorum, hai perfettamente ragione, secondo quindi. Me si può andare anche a non votare comunque, visto che è legittima anche sulle elezioni politiche, ma sul referendum soprattutto. Io vorrei un numero di eletti proporzionato anche a chi partecipa al voto, cioè che l'astensione contasse anche per determinare il risultato, per esempio, addirittura sì, perché secondo me, sai, quando siamo arrivati a percentuali così elevate, che sono classicamente manifestazioni di gente che diceva: beh, tanto è inutile, siete tutti uguali. Secondo me dovrebbe diminuire il numero degli eletti in proporzione a chi partecipa al voto, perché si darebbe un significato e un peso anche all'astensione, che non muterebbe le proporzioni di chi vince e chi perde. Numero sì, cioè l'esborso, per esempio, anche. Tutto questo con la riforma di Renzi non c'entra niente, la riforma costituzionale, no, non c'è questa non c'è, però ieri bellissimo spettacolo, l'aula vuota, non era un'aula sorda e grigia, però era un'aula vuota, e il Presidente del Consiglio che ha detto, come sapevamo, mi gioco tutto, al referendum, vabbè. Sì, un Renzi anche che ha detto, sentiamolo, vince oggi la democrazia, questa è la realtà. Quello che deve essere chiaro è che oggi vince la democrazia. Sostenere che vi sia stata una lesione della democrazia perché oggi il Parlamento sceglie, sulla base del modello previsto dalla Costituzione italiana, di modificare la Costituzione, significa fare a pugni con la realtà. Vabbè, questa è la posizione di Renzi, mentre le opposizioni erano tutte di fatto fuori dall'aula. Però dal punto di vista parlamentare non c'è stato, come dire, violazione di regolamenti, si è discusso due anni questa riforma. Anzi, no? Lui dice tra un voto e l'altro, sei volte, no? Il Parlamento, più il referendum, cosa volete di più? Vabbè, però insomma, lo sappiamo, il percorso di riforma costituzionale è andato storto nella Seconda Repubblica, ricordiamolo, testo approvato per pochi voti che ha fatto esplodere il conflitto istituzionale tra Stato e Regioni, poi un tentativo del centrodestra respinto per mancanza di quorum al referendum, vedremo questa volta. Certo non c'è, non mi pare c'è una grande tensione morale intorno a questo dibattito, Ma ci sarà forse sul referendum a ottobre, visto che Renzi lega il suo destino politico a questo, ma insomma, su questo lo vedremo più avanti. Però caro Oscar, oggi ci sono anche tanti titoli sulle banche e quindi sì, forse ci dovrei dire qualcosa. Io mi taccio perché so di banche raramente, visto che non ci entro neanche, ho il conto online. Ah, a Panama? No. No, online. Sto scherzando. No, ma però mi hai dato un'idea, potrebbe essere. Ma se dici se lo faccio online a Panama mi controllano? No. Ma penso, temo invece di sì. Basta avere qualche accortezza, non farlo sul computer bene, di casa. Insomma, bene, sì. Allora, ieri nasce data storica, perché per certi versi è davvero una data storica. Nasce un intentone, un grande veicolo finanziario, un SGR, che viene presentato come privato sui giornali italiani, che sono tutti entusiasti. Io non sono entusiasta, come sempre sono minoritario, ma viene presentato come un veicolo privato, non lo è affatto. In realtà l'Italia ieri ha mosso un passo per dire la BRRD, la direttiva comunitaria che abbiamo applicato tardi e male per le quattro banche a novembre, non vale. Cioè non lo vogliamo questo fatto per cui le banche falliscono su se stesse e pagano gli azionisti, e allora ci inventiamo uno strumento collettivo, per così dire, finanziato da banche, finanziato da fondazioni, da fondi pensione, ma in realtà in cui tutte le riunioni sono avvenute al tesoro, quindi è un intentona pubblica, c'è CDP nel capitale, servirà con 5-7 miliardi di capitale raccolto a che cosa? A far lanciare aumenti di capitale alle banche a un prezzo più elevato che di mercato, in maniera che l'inoptato finisca nella pancia di questa roba qua. E quindi diventa una grande stanza di compensazione in cui concentrare il controllo delle prossime banche che sono costrette dall'Europa a fare un aumento di capitale. C'è la Popolare di Vicenza, Veneto Banca, il Banco Popolare, e le quote fondamentali per l'esercizio del loro controllo proprietario finiranno in questo intentone qua, che comprerà anche i crediti deteriorati a un prezzo più elevato di quello che il mercato era disposto a riconoscere. Insomma, c'è un precedente nella storia italiana degli anni 20 e 30, serviva per salvare le banche ed era un grande fondo che assunse la loro partecipazione nelle industrie. Si disse che doveva durare pochi anni, venne dato all'IRI quando nacque nel 33, si disse che doveva durare 10 anni, l'IRI è durato 70 anni. Questo è il precedente nella storia italiana. Vedremo come va, tutti i giornali sono entusiasti perché così abbiamo la garanzia che le banche non cambiano padrone. Io penserei che bisogna invece concentrarsi di più sui clienti delle banche e meno su chi le controlla. Però vedremo, caro Alessandro. Vedremo che succede. Allora, sono le 8:27 minuti. Io vi ricordo anche il numero se volete intervenire: 800 24 0024. Caro Oscar, sui temi dei giornali si parla anche di aborto. So che è un tema sul quale forse non è l'orario, non è l'orario giusto. Ma se volete c'è anche questo, nel senso che il Consiglio d'Europa ci ha detto che in Italia ci sono troppi medici obiettori. Ti faccio sentire quello che Mario Adinolfi ha detto stamattina alle 6:30, sapete che lui fa battaglie di questo tipo. Senti un po' cosa vorrebbe Mario Adinolfi in Italia. C'è il diritto per un medico di fare obiezioni di coscienza. È che sono un po' troppi, secondo il Consiglio d'Europa. Io sono un po' che troppi. Il 100% dei medici che fanno un giuramento, si chiama giuramento di Ippocrate, in cui giurano di non somministrare mai medicamenti che causino la morte. Ora, mi piacerebbe che il 100% dei medici fossero obiettori di coscienza. Il 100% dei medici vorrebbe... E questo è il modo in cui si scrive la legge in Italia. Noi abbiamo una legge che garantisce un diritto in alcune circostanze all'interruzione volontaria della gravidanza, e si dice che invece non deve essere fatta rispettare. Questa è la maniera che io non capirò mai di come in Italia non vogliamo uscire da che cosa? Dal 1633 che oggi ricorre, cioè il processo a Galilei, perché è la stessa storia di sempre. Certo, è la stessa storia di sempre. E la Chiesa l'ha riconosciuto nel 1992, altri no. Allora, ogni due anni il Consiglio d'Europa, caro Alessandro, ce lo ricorda che è così questa faccenda. Ci sono intere aree d'Italia dove la percentuale di personale medico, sanitario, obiettore è tra il 90 e il 100%. E anche nel nord, capita anche a Genova per essere chiari, in Lombardia siamo a quasi il 70%, ci sono parti dell'Abruzzo, del Molise, della Calabria, dove siamo tra il 97 e il 100%. Perché? Perché se vuoi far carriera è meglio essere obiettore, detta proprio fuori dai denti, e perché ovviamente se finisci tra i non obiettori ti fanno fare solo quello nella vita e dopo un po' ti passa la voglia perché sei discriminato. Ecco, allora, che questa sia una buona maniera per concepire come si attua una legge, a me non pare. Sono d'accordo. Allora, caro Oscar, qui avremo tra pochi minuti dopo la pubblicità Joram Gutgeld, che è responsabile, uno dei consiglieri economici del Premier Renzi, è responsabile della Spending Review, la cosiddetta revisione della spesa pubblica. L'araba fenice, attenzione, perché insomma lui dice in realtà che è stata fatta, ce n'è, taglia e taglia. E entreremo, spero, poco in dettagli tecnici e numeri, ma insomma si capirà. Si capirà qualcosa. Zic zac, le forbici. Allora, le forbici ci sono. Allora, 800 24 00 24, andiamo in pubblicità 3 minuti e poi Joram Gutgeld con noi. Eccoci qui, sono le 8:34 minuti. 8:34. Allora, c'è un ascoltatore che è Giuseppe da Teramo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a voi, Giannino, Milan, vi ascolto sempre con passione, ecco, diciamo così. Grazie molto. E volevo intervenire in merito al decreto banche di ieri, perché io sono stupido. Non è un decreto, è per il momento è un'intesa, un decreto verrà in settimana comunque, dica. Peggio ancora. La cosa che mi spaventa è perché Cassa Depositi e Prestiti deve intervenire e controgarantire una serie di operazioni di carattere privatistico, quali sono gli aumenti di capitale delle banche o le sofferenze bancarie, se poi è il collettore dei depositi del risparmiatori postali che non sono risparmiatori di rischio. Bella domanda, Giuseppe, perché in realtà l'iniziativa non è privata. E Banca d'Italia e il Tesoro ha brutalmente chiesto a tutti di partecipare a questa roba perché vuole un paracadute pubblico. È una stanza di compensazione pubblica, come la fu quella del 22, che nacque come consorzio, appunto, sovvenzione valore immobiliare delle banche. Ed è quello il precedente, che poi portò all'IRI, ripeto, cioè la storia italiana è stata scritta. E quindi la CDP è lì perché lo strumento pubblico, che però per convenzione europea non fa parte del perimetro del contabile dello Stato, ma è una cosa che con tutte le riunioni fatte al MEF, con la Banca d'Italia che ha già trattato a Bruxelles. Quindi Giuseppe, siccome lei ha ragione, non ci dovrebbe essere, però è così perché la volontà della politica e del regolatore bancario italiano è quello di avere un paracadute che non ci metta a rischio delle regole europee. Questa è la risposta alla sua domanda. Allora, con noi abbiamo Joram Gutgeld, che salutiamo, deputato del PD, responsabile della Spending Review, la revisione della spesa. Buongiorno onorevole Gutgeld, eccoci qui. Buongiorno a tutti. Allora, oggi la stampa soprattutto mette in rilievo questo giallo legato alle pensioni sul DEF. Intanto ci aiuti a capire, perché è rispuntata l'ipotesi del taglio legando le pensioni di reversibilità all'ISEE. È allo studio questa cosa? Sì, no, perché il ministro Poletti ha detto verrà corretta, non saranno toccate. Com'è la posizione all'interno del governo, Gutgeld? Le pensioni di reversibilità non verranno toccate. Non verranno toccate. Punto, è una punto, è appunto, vabbè, punto. Risposta chiara e secca, risposta per chiara così e secca, dire. Insomma, direi che smetti. Allora, questo è un cos'è? Un giallo, non giallo, non è. Io devo dire, non posso certo io essere io a rispondere dei gialli giornalistici mediatici. Diciamo la versione secca e chiara è questa, non dire. Verranno toccate, Oscar. Senta Gutgeld, noi l'abbiamo chiamata perché in realtà del capitolo della Spending Review di cui si occupa lei, uno di quelli su cui è tornato più sistematicamente ancora recentemente a marzo è quello relativo a cosa si può risparmiare nei prossimi tre anni, diciamo entro il 2018-2019, con meccanismi diversi di gestione delle gare pubbliche per l'acquisto delle forniture. Allora, siccome ieri Repubblica ha fatto una pagina intera con un titolo, ci sono 20 miliardi ancora sottratti alla centralizzazione delle gare telematiche, quindi anche più trasparenti al meccanismo di informazione dei prezzi gestiti dalla Consip. In realtà sono di più di 20 miliardi. C'era un equivoco perché poi Repubblica sembrava che dicesse si possono fare 20 miliardi di risparmi, magari per certi versi, però io richiamo qualche cifra e le chiedo a lei, che ha il dossier in mano, cosa ci dobbiamo aspettare davvero per il 2016, 2017 e 2018, perché se noi andiamo a vedere fino a questo momento la Consip più o meno di questi 130 e rotti miliardi della spesa sostenuta dalla pubblica amministrazione per le forniture ne presidia un po' più di 47 tra gare, appunto, in realtà molto meno, però questo è quello che viene dichiarato, per così dire. No, scusi, prego, vada che poi cerco di spiegare. No, dica, è inutile che vado avanti. Intanto dica rispetto a questo, che Consip dichiara sommando i suoi diversi ambiti di intervento. Allora, qua, senza entrare in questioni troppo tecniche, sì, perché ovviamente sono aspetti anche tecnici di cosa significa presidiare, cosa significa far gara e così via. Esatto. Consip, diciamo... ha le convenzioni, ha degli accordi quadro e vari altri strumenti, poi c'è la questione del mercato telematica, che coprono una spesa che vale appunto circa 40 miliardi, ma non è che tutta questa spesa passa attraverso questo meccanismo. Esattamente. Ci spieghi che cosa ci possiamo aspettare in concreto nel prossimo anno e altre cose? In concreto, noi abbiamo diciamo fatto alcune cose di cambiamenti molto importanti nella gestione degli acquisti di beni e servizi per la pubblica amministrazione, che appunto ammontano complessivamente a 130 miliardi circa. La prima cosa, la cosa più importante, è la creazione del meccanismo dove si passerà gradualmente, ovviamente non in un anno, da acquisti fatti da di fatto 50.000 centri di spesa a un meccanismo dove le centrali che comprano o gli enti che comprano sono 33 o 35, adesso vedremo i numeri esatti alla fine. Entro cioè, quando, se posso chiederglielo? No, ma è già operativo. Allora, questo meccanismo è già operativo e funzionante di fatto dal 9 febbraio. Quest'anno, attraverso questo meccanismo, passa circa 15 miliardi di spesa, quindi già un inizio importante. Questo meccanismo dove c'è ogni regione ha una sua centrale, ogni città metropolitana, quindi grande comune partecipa, e poi c'è la Consip. Questo è un sistema che lavora in realtà come un sistema unico, per cui per esempio, faccio un esempio, si faranno adesso le gare per alcuni prodotti della sanità, gli stent, le protesi d'anca e così via. Di fatto queste gare verranno fatte in un modo coordinato, quindi ci sarà probabilmente non tutte le regioni faranno le gare, solo alcune regioni che faranno le gare per conto delle altre, e comunque tutta questa attività verrà coordinata in modo organizzato. Quindi noi passeremo, di fatto faccio l'esempio della sanità per quello più semplice da capire, da un sistema dove ogni ospedale compra per conto suo, che questo di fatto è al 90% la situazione fino a ieri, diciamo, da oggi in poi tutti gli acquisti passeranno attraverso questo sistema centralizzato. Quindi questo è il cambiamento più importante. Il sistema già funziona, quindi già opera in questo modo, non per tutte le categorie come dicevano, solo per una parte, e nel tempo di fatto coprirà tutto quello che si potrà coprire. Questo porterà risparmi importanti in termini di prezzi di acquisto, ma oltre questo anche lavorerà su questioni per esempio che non solo a che prezzo si compra, ma quanto si consuma, perché per esempio noi vediamo che ci sono differenze importanti di consumo di alcuni di questi prodotti, di questi dispositivi tra vari ospedali, e su questo si interverrà, perché avendo l'informazione a disposizione sarà uno strumento utilissimo a risparmiare. Senta, io le faccio una sola domanda, anche questa non tecnica, ma per far capire a chi è a casa, perché da una parte noi abbiamo la Consip che dice ma noi realizziamo nelle gare che trattiamo centralizzate enormi risparmi, e citano cose, insomma, dicono quando ci c'è nel Stato nel 2014 e siamo stati noi a procurare le fotocopiatrici, la pubblica amministrazione risparmia il 52%, le stampanti il 51%, il 43% per il traffico voce telefonico. Dall'altra parte c'è chi obietta invece, no, guardate che ci sono due problemi che stanno emergendo in questi anni con le gare Consip. Primo, centralizzandole ci sono un mucchio di imprese che non partecipano più. Secondo, sono comparse, pare, delle imprese specializzate per le gare Consip che prima non esistevano, e molti fornitori di settore dicono a noi questa cosa ci sembra del tutto non trasparente, perché c'è un rapporto con questi fornitori tecnologici per asset digitali della PA che non ci convince. Chi ha ragione e chi ha torto? Si possono fare molti risparmi o è un meccanismo che a propria volta dovrebbe interessare interessare Cantone per qualche rischio? No, beh, a parte che ovviamente l'intervento del Cantone, di ANAC, ovviamente è sempre una vigilanza importante, però i risparmi ci sono risparmi importanti. Noi abbiamo avuto nel passato, e qua è se vuole il secondo meccanismo che riguarda invece gli acquisti dei prodotti, soprattutto di campo dell'energia e della telefonia e dell'ICT, dell'information technology, lì in realtà c'è un obbligo per legge di passare attraverso la Consip, che per vari motivi di fatto è eseguito al 20 o al 30%. Quindi noi stiamo facendo il suo lavoro per assicurare che il percentuale molto più alto passa attraverso Consip in questo caso, perché questi sono acquisti che fa la Consip, non di altri soggetti di questo sistema di acquisti centralizzato. Lì c'è prima di tutto la questione di offerta della Consip abbastanza ampia per coprire tutte le esigenze, perché parte dei problemi per cui non si andava a Consip è che una amministrazione voleva una cosa particolare che non era previsto dalle convenzioni e dalle gare Consip, quindi bisogna allargare, diciamo, l'offerta Consip da questo punto di vista. E dall'altra parte stiamo facendo adesso un lavoro proprio con le amministrazioni, quelle importanti, per assicurare che più cose effettivamente vengano passate attraverso Consip. Stiamo lavorando, questo è uno dei vari tavoli della revisione della spesa, per esempio con le forze dell'ordine e la difesa, che sono grandi acquirenti di energie, di automobili, di servizi mensa e così via, per cercare di prima di tutto aggregare la loro spesa, prima di tutto che oggi è frammentata, e ovviamente utilizzare i servizi Consip per comprare meglio, per comprare le quantità giuste e così via. Ma secondo lei quanto, per concludere, ci possiamo aspettare tra 2016, 2017 e 2018? Perché in questo ho cercato una voce specifica nel DEF del governo, ma non c'è. Ci possiamo aspettare di riduzione su questo da interventi come quelli che ha descritto? Io adesso non voglio dare una cifra specifica, perché ovviamente il lavoro stiamo facendo adesso, ma il potenziale sono di risparmi molto molto importanti, diciamo risparmi che sono non nell'ordine di centinaia di milioni, ma risparmi in ordine di miliardi, diciamo. Poi i numeri li vedremo nel tempo. Va bene, allora noi la ringraziamo intanto per aver precisato, che quindi insomma, per capirci, cari ascoltatori, quel titolo 20 miliardi di risparmi dietro l'angolo, Alessandro, mi sembra un po' ottimistico, per così dire, come si è capito. Esatto. Grazie ovviamente a Gutgeld. Ci sono tanti ascoltatori su temi più svariati. Marcello ci chiama per esempio da Catania. Buongiorno Marcello. Buongiorno, buongiorno a lei dottor Milan, buongiorno a lei dottor Giannino. Ascolto come sempre ogni mattina la vostra trasmissione, un'ottima compagna per cominciare la giornata. Siamo in macchina a cominciare, come tirare, sbarcare il lunario, visti i tempi molto brillanti. Ci fate veramente compagnia, ci fate un attimo spazio. Bene, bene, Marcello, vado al punto. Stamattina è interessantissima e bellissima l'apertura mentale che ha avuto il dottor Giannino sulla provocazione che ha fatto sulle elezioni. Veramente è interessante da sviluppare, cioè il numero di eletti proporzionale al numero di elettori. Sì. Renderebbe più senso compiuto il senso di democrazia, cioè capiamo che meno partecipiamo alla democrazia e va fatta salva quella frase che la politica o la fai o la subisci. Però sarei rimasto ascoltatore silente fino a quando non ho sentito una vostra autocensura, quella non è ora di parlare di questo argomento, se non che poi mi ha parlato il dottor Cennino, diciamo in maniera abbastanza, mi ha fatto viaggiare nel tempo, mi ha fatto viaggiare dal 1633 a un futuro distopico immaginato da Huxley nel mondo nuovo, bellissimo. Ma dottor Giannino, vuole dire per caso che indice di civiltà evoluta un fatto che ci sia un alto un numero di aborti? Ci sono dei diritti che sono dei minus abendi, cioè che se era lecito a essere un obiettore di coscienza quando si trattava solo di imbracciare una mano, una pistola per spinta, e invece un senso di arretratezza culturale dire che un grumo di cellule sia vita? Risponde Oscar. Marcello, no, guardi, io sono costernato che ogni volta torniamo ai massimi sistemi. Io dico semplicemente, esiste un problema su un diritto, interruzione volontaria della gravidanza, in alcune circostanze e entro limiti temporali, garantito dalla legge. La legge c'è, va rispettata insieme al diritto che c'è l'articolo 9 dell'obiezione di coscienza. Cosa vuol dire? Organizzare un servizio in cui per ogni ospedale ci sia un numero minimo parametrato agli organici di personale che sia in grado di assicurare l'offerta di quel diritto a tutti, con il rispetto contemperato degli obiettori di coscienza. Io qui non entro il grumo di cellula, la vita o non la vita, convinzioni vostre, di ciascuno di voi che rispetto. Dico semplicemente che siamo da anni di fronte all'obiezione che non siamo in grado di rispondere a quel diritto, perché dove ci sei 100% di obiettori, come è evidente, la gente non può avere quel diritto garantito. Tutto qui. C'è anche Damiano che ci chiama da Modena. Buongiorno Damiano. Sì, buongiorno, buongiorno Oscar, buongiorno Milan. Niente, c'eravamo anche diviso tempo fa riguardo al Family Day. Comunque volevo solamente fare una precisazione. Io sono padre ormai da 2 anni di 2 bimbe e volevo solamente precisare il fatto che quando mia moglie le prime, sia per la prima sia per la seconda bimba, ha chiamato il consultorio, la prima domanda che gli è stata fatta è stata se volevamo tenere il bimbo. Riguardo tutti gli obiettori di coscienza, mia sorella, spesso parlo con mia sorella perché fa l'ostetrica, e spesso diciamo la legge 194 viene utilizzata in malo modo, nel senso che l'aborto viene utilizzato per qualsiasi motivo, nel senso che c'è la donna che purtroppo si sente troppo vecchia e non vuole diventare madre, c'è quella che invece l'ha fatto senza preservativo ed è rimasta incinta. Ma insomma, per arrivare a dire che cosa? Il tema è quindi, a parte, cioè, diciamo che quindi il Galileo... No, non c'è... Damiano, lo dica in parole sue. I galileiani, nel senso che qui si vuole far fare alla gente quel che si vuole. Ma... dire che... l'aborto, si possa utilizzare l'aborto per far quel che più si vuole, sì, o quel che più pare piace, non mi piace. Sembra molto illuminista e galileiano. Va bene, molto meglio un paese che ci stabilisce se possiamo scopare sì o no quando e se rimaniamo incinta e dobbiamo portare queste donne a portare avanti la gravidanza per forza e forzatamente. Poi, a tutti io sono i costi. Viva la libertà. Il problema è che la percentuale di obiettori è elevatissima, voi la mettete invece come se fosse il contrario. Ma poi è strano, parliamo di aborto e non ci chiamano delle donne. Mamma mia, che disagio, che disagio. Andrea, magari qualche donna invece che questi illuminati. Buongiorno Andrea, Danilo, buongiorno. Buongiorno Milan. Buongiorno, chiamo ci illumini per... No, chiamo solo per la questione introdotta questa mattina sull'intervento del Presidente della Corte Costituzionale circa l'opportunità o meno di andare al voto. Sì. Io ritengo che l'intervento sia stato fatto da parte del Presidente della Corte Costituzionale semplicemente in aderenza all'articolo 48, che adesso guido, quindi non vado a memoria, al comma 2 dice che è un dovere civico andare a votare, quindi c'è l'aspetto del dovere oltre che del diritto nella Costituzione. Questo per correttezza con chi ci ascolta, questo tema è uno dei più equivocati nella storia della comunicazione del diritto pubblico italiano. Questo concetto del dovere sanzionato, che è una cosa del 46, nel nostro ordinamento non c'è più, non so se è chiaro, tantomeno nel referendum. Tanto è vero che, ripeto, il Presidente della Corte ha detto io credo che si debba partecipare, la sua è una legittimissima, onorevolissima convinzione per personale. per essere considerati dei cittadini. Però diceva Andrea, per concludere, invece per lei è un dovere, insomma. No, non lo dico io, lo dice la Costituzione, al comma 2 c'è scritto è un dovere civico, virgolettato, quindi poi uno può interpretare come vuole, però la Costituzione forse è una delle norme, essendo al vertice delle norme dello Stato. Ma scusi, Andrea, per esempio, le faccio un esempio concreto, perché sa, la Costituzione è importante, la nostra legge è fondamentale. Io non sono andato a votare le europee, quindi cosa dovrebbe succedermi dal punto di vista tecnico? Nulla, per carità. Cioè, no, ho violato, non ho compiuto un dovere civico. Quindi... Lei non ha compiuto un dovere civico se non è andato a votare. Tutto qui, io volevo solo fare questa osservazione. Peraltro, ritengo che i padri costituenti abbiano voluto fare questa precisazione del dovere civico unicamente in contrapposizione a una dichiarazione che fu fatta nel 26 da un noto dittatore italiano, Benito Mussolini, che semplicemente disse: il voto è un ludo cartaceo, cioè un gioco di carte. Quindi Voglio dire, tutto qui. Allora, siccome vedi, ci scrive un'ascoltatrice dicendo, facendo mio anche l'appello, perché quando si parla di aborto chiamano poche donne, però Giuseppina ci chiama da Catania, credo, su questo tema, spero, voglio sperare. Giuseppina, buongiorno, lei che è donna. Buongiorno. Io sono un medico e volevo segnalare che spesso gli ospedali, la sanità pubblica è anche gestita da strutture cattoliche, da religiosi, in cui non c'è nemmeno la possibilità di stabilire se uno obiettore o meno, perché perché l'aborto viene direttamente in queste strutture, non viene garantito come servizio. Però nelle strutture statali, lei che esperienza nelle ha? Strutture statali c'è un'alta percentuale di aborto, però delle strutture sanitarie gestite da cattolici, in cui ci sono tanti servizi di ostetricia e ginecologia con alti numeri, in cui non è possibile garantire questo servizio, a me sembra decisamente un abuso. Va perché bene. Se c'è una struttura pubblica, anche lì deve essere garantito questo tipo di servizio, che è una legge. Grazie Giuseppina, ma guardi, con lei dobbiamo proprio chiudere, caro Oscar. Che dire? Solo una cosa, non è obbligatorio per legge, il dovere civico, se andate a vedere, ci sono tonnellate di dottrina che dicono che non è vero, bisogna andare a votare. Avrei infranto la legge, ragazzi, altrimenti è finito questo paese. Se addirittura crediamo che la Costituzione c'è scritto che siamo obbligati a votare. Ricordate, va bene, che in America Obama è stato eletto come molti presidenti con il 50%, forse anche meno, di voti. Comunque, a domani.